attaccato subito. Grazie, signor Casinica, sì. Parla attaccato al microfono, mi sta dicendo basso, cazzo. José. Parla adesso. Avvicinatelo al microfono, non te lo staccare dalla bocca, se no non ti ascolto io. E guarda adesso. 1, 2, 3, 4, 4, 5, give me 6, 5. Capa, capa, compagnia di assetti da Rovariello e Sandro da Papatango, avanti per Dio voi, Giuseppe. Sandro, dolce amico delle avventure, come stai? Ciao carissimo. Bene, ascoltato, aspetta che qua il cavallo è mezzo freddo e ogni tanto si mette a morrugnare. Ecco, ma dove sei? Tu giù di là oppure a Papatango? Alla città di ferro. Papatango? Ecco, la città di ferro. A Papatango, Ciao Luca. Buonasera a tutti. Cazzo, sei rimasto appeso anche un po' di miscia a Drezzo. Manco quello. Cazzo Luca, manco quello. No, non mi veniva lo stimolo. Uffa! Vai Luca lì. Esagerati, dov'è questo freddo? Aio giovani. No, oh, non è freddo, è rimasto quasi senza benzina. Allora per quello che entra il freddo. Eccolo. Cappa cappa. Poi per carità, per carità. Dunque, è così. Ebbene, cosa si dice a Patatango, Sandrino? Freddo c'è lì. E cosa vuoi che si dica a Patatango? Si dice sempre la solita vinetta, niente di particolare. Siamo sempre le solite, niente di particolare. Freddo? No, è uscito, c'è un po' di umidità, sta scendendo un po' di umidità. Ma niente di particolare, tutto quanto. Avete saputo che ci hanno rovinato Platanone, sì? Cappa, sì sì. Petrolio. Solo per Platanone, un po' dappertutto, Balai e compagnia bella. Ok, vabbè. Ogni tanto qualche stompata ci vuole, tanto per cambiare. Siamo a Conci già. Lucariello. Lucariello è in affaratto. Riesci a vedere. Si sta scaldando. Sembra che stia scaldando il cavallo. Va bene. Dov'è Sandro? C'è il cavallo e il fantino dov'è? Il fantino è in ferie, l'ho mandato in ferie. No, ma c'è un paio di marocchini su dall'antenna adesso con l'umidità, anche fa un po' di capricci, quindi ogni tanto li mando su a riscaldarla. Ecco. Tu vai, c'hai il Vucupra, con la corda, col tappeto, c'hai quello che vola, vero? C'hai. Ci mettono lì e riscaldano l'antenna. Via, riscaldano, capito, va pure. Ok, allora, Franchetto. Dimmi, Sandri, dimmi. Cosa vuoi che ti richiami? Ogni tanto cercano di ammazzare un po' il tempo. Ogni tanto gli viene il pallino. C'è l'antenna umida e subito accusa. Cappa. No, già stai facendo bene. Ogni tanto va ma è raro che lo faccia, dai. E poi se hai appena acceso deve scaldare, conviene farla scaldare bene, il cavallino. Così te lo nota di più, Sandro. Io faccio sognare un po'. Lo faccio sognare? Cazzo, qua. Poi ho messo il bilancione, no? Mi ha dato un piombo e l'amo quello grosso. spunta con il ricordo, con il pezzo che un pezzo attaccato, no? Come stavo recuperando, non c'era da c'era attaccato a tu. Un bel polpetto, cazzo piglia, cazzo che questo cazzo, come lo stavo tirando su, cazzo, piglia che si molla, cazzo, e ho perso il polso. La mano, guarda, incazzatura, cazzo, guarda, ho detto, boh, basta, vai a far culo, tu pensa e cazzo vai. Già sei andato a vedere. Un polso, cazzo, guarda, bello pesante era, a tu. E mio sta toccando intorno a un chilo e mezzo, due, massimo, guarda, non voglio esagerare, un chilo e mezzo, due, cazzo, ma bello grosso, cazzo, figlia, cazzo, ma me lo stavo, era proprio cazzo, se no le lampioni, no, se no cazzo, gli avrei infilato la lampioni, qua, un'incazzatura, cazzo, ho detto, mamma mia, ho detto, beh, basta, non ne voglio più sapere, vai a fanculo. Tu bel cazzo. Oh, io e Sant'Antonio lì, siamo a Conceso. Sanata di polto, cazzo, va. Mamma mia, Giuseppe, Luizio, cazzo, non si comprende nulla. Aspetta un attimino, fa che cambiata la musica. Ehi, alla grande, Sandri, alla grande. Ok, dai. Ok, usiamo un attimino il vecchio barattolino, che non perdona mai. Va bene. Ah beh, è positivo quello, è abbastanza bene, buona come radio. Ehi, ok, dai. Ehi, ogni tanto bisogna. Ogni tanto bisogna farlo scaldare, ma vedi, questo non si lamenta. No, no, questo no, questo è più sincero. Ok. Oh, aspetta che mi chiamano, va. Ti ho sentito, Sandri, vai, va bene. Giuseppe! Dicela tutta, cosa c'è, buon Antonio Falchetto, che fida sempre il volo sopra il tetto. Ah, ti sei passato la canna, è perso un bovico, è perso un pesce, siamo noi ci siamo andati a vedere. L'unica cosa è quello che ti stavo facendo in macchina, mettermi una parrucca, una melerona e andare per il portone. Ha rischiato di rimanere senza benzina, e siamo noi ci siamo andati a tutti i vermi. Qualcuno mi ha frastimato. Cazzo, avvio, ma tu entri in cerca cazzo con quelle delle morte, cazzo, Luca, cazzo, all'elettrotomba sei uscito. Ehi, cazzo, va pure il dupo, allora, puttana, capito, la carogna, qualcuno mi ha frantimato, Luca, oh, yeah, per carità, adesso mi devo arrangiare a farmi, pigliami le lenze grosse, pigliami i cosi per... e prepararmi questi le lenze per i gronghi, quello che è, hai capito? una scena di Giuseppe, cavolo, mannata, te l'ho detto, guarda il sindaco di Provai che ti permette la mano in testa, lo dire due volte, mi guarda che se resto a puntare i soldi metto cazzo 20 euro di benzina cazzo e vado a Provai e mi faccio mettere la... Cazzo, guarda, almeno cazzo, sono sicuro. Con la mano. Quello non è solo cazzo, Giuseppe, senza offesa, te lo dico senza offesa. Tutti questi cazzo, non ho capito un cazzo, Va bene, non ho capito niente. Ho detto, con tutte queste bestemmie che mi hanno dato. Ho detto, vado dal sindaco, mi faccio mettere la mano in testa, la mano mi dà della benedizione lui e non mi succede niente. Ah, adesso vedi, adesso ho capito tutto quanto. Vai tranquillo che se ti mette la mano in testa lui, ho fischiato il tesoro tutto, ho te buona pucio. almeno vediamo dove hanno fatto la tomba del cane e troviamo il cane della Lecca. Grazie. La Lecca. Adesso fra poco entra mister Ciupi Ciupi e lo sentiamo a tutti. Chi è su Ciupi Ciupi? Chi è Ciupi Ciupi? E che può essere? Buonasera a tutti. Ciupi Ciupi Ciupi Ciupi. Amoroso? Ecco chi ce l'hai. Con chi è? E chi può essere? L'uomo bionico. Ale, assegno lo pen. Pompugno. Assegno lo pen. Assegno lo pen. Pompugno. Non sapevi altro che soprannome. Assegno lo pen. Assegno lo pen. Alessio. Come il secondo nome. Soprannome. Se ti senti lui. Dobbiamo vedere quale cazzo pezzo la è adesso per vento, quello lì è la faccia nostra. Ah no? E scende tutto il traverso, tutta la roba che beve. Zuccari! Zuccari Montezemolo, la DC! Pronto, arrivo subito. So. È vero che tu sei azionato con quel computer? So. Poker 24, K. Ma che ti? Dimmi José. Tu ce l'hai il computer? Ah, là, il computer. Ah, là? No, non mi piace. No, pensavo che ce l'avevi, no? Era così, una domanda a titolo impegnativo. No. Non ne ho e non mi interessa vero. Vabbè. Il computer già è bello, però è anche massacrante. È bello perché piace. Prendi a Lucari e lo canto sempre attaccato al computer. Vabbè, ormai lui è fotogenico del computer, hai capito? No? Si è fatto il protezzato. Vabbè, ricordo, no, non l'hai più sentito o anche chi? Claudio! Bravo! La parola, e vuol dire che sta lavorando forte. Sì, è molto impegnato il lavoro. Oppure non ha voglia lui di entrare per motivi familiari. Aspetta, se mi stanno chiamando, chi è che chiama? Carissimo! Carissimo Pinocchetto, buonasera, ben ascoltato. E come mai? Ma dove sei andato? In Spagna? Andrà bene l'anno, Pinocchè, andrà bene, si possiate traballare. Sempre c'è Luca e Sandro da Porto Torres, ma non so se ci arrivano da te, non penso. E sto arrivando. E KK, anche tu stai arrivando bene. Vi saluta Pinocchetto al Moro, a Giuseppe, a Luca e a Sandro. Vi saluta Pinocchetto, KK. E allora Pinocchetto, sempre tre bollende? Un attimo, attenzione Pinocchetto. Via via, ti rilascio a Sandro, vai Sandro per Pinocchetto. Ehi K, io riesco a tirarlo un po' fuori, Attenzione Pinocchetto, se ascolti la città di ferro. Ok, dai. È già tanto che riesci a tirarmi fuori. Com'è la radio da te, Pinocchetto? La mia modulazione, la mia voce, com'è? Non l'ho capito, Francesco. Ha detto che la modulazione è più alta della mia. Capito, però la radio è un po' in volta, diciamo, un regalo tra te e Sardo, un po' non è molto comprensiva. Ho capito, vabbè, è già tanto che mi ascolta, dai. KK. Bene, bene, Vinuccio, riprenditela. Di non essere... E non è inutile, dai, col guizzo. Avete? Vedo me. Vedo me, veloce. Ti hai, veloce. Ah, che non l'ho bendata la gara, l'ho bendata la gara e basta. Hai l'uso di albiro, l'uso di albiro. Albiro. Purtroppo mi chiede un po' un gusto, veloce. Se no, lo metto a fare davanti ai lampi. Esagerato. L'uso di albiro, l'uso di albiro. Ho detto che avevo andato a chiedere il gusto, io mi provocare da, io sono già in grado, se tu sei stupendo urlia. Vabbè, ciao, andiamo. Ma Claudio, so, dai meta che non lo intendo. No, dai meta che non lo intendo. È impegnato bene con il suo lavaglio, esce. Purtroppo lo capitolo mi chiede, beh. Da bene, sì. Ma poi non disco. Ma poi Pinocchi, fate la buona, ce la riascoltiamo le migliori. Ciao. Vai Sandro, se ci sei. Aspetta qualche. Aspetta che mi è successo qualcosa qua. Non lo vedo tranquilla. Come mi ascolti? Io ti ascolto bene. Ma è cambiato qualcosa? No, no, non serve pulita la gara. Bassano. Ma no, no, ti ha pulito la gara. Vabbè, dai. Però non mi convince, boh. Ho lo strumento che mi sta dando problemi. Aspetta, faccio un po' di bianco, dai. Vai tranquillo, sa. Tu c'è. Appena c'è, ti ha staccato, dai. Tu sei, beh. Già, dimmi, fa te. La società dei cinebocchi li prende, sono essere mancanti. Andiamo ai complici, dai. No, stavo riscaldando quello che mi ha mangiato da oggi da pranzo, ho capito, due cucci di polletto, un po' di patatine, ma le stavo riscaldando, dunque fra un po' andiamo a cenare. Anche tu devi cenare, no? Ho già cenato, hai fatto. No, no, anch'io devo andare a cenare, dai, non c'è problema. Quando vuoi dimmi che stai andando a cenare, si chiude tutto e ciccia. Ma dimmi che ci sentiamo più tardi, non è quello il problema. Non è quello il problema tu. Sandro, l'ho ripreso, hai. No, Sandro, le stava andando male qualche cosa, la sta controllando. La sta controllando. KKK. Ma c'è una cosa, ma tu? Io ho portato l'apparato a Alessio, a casa sua, e l'ha messo, l'ha acceso, tutto quanto, lo stava provando più di un'ora e non ha riscaldato. Cazzo, vengo qua a casa, attacco le come è normale, con alcolio, cazzo, e mi riscalda. Cosa cazzo può essere? Boh, non saprei. Ma scaldava sempre questa parata. Cos'è sa? A tu? Ho detto, ti scaldava sempre l'apparato. Oh, non è che scaldava sempre, però... Certo, mi sembra strano che questa cosa qua scalda. Quando era a casa di Alessio non scaldava niente. Strano, ho detto strano, ma... Ma se sia magari che la stanza sia un po' fredda, saprei dirtelo veramente, non saprei cosa dirti. Vabbè dai, uia. Lucariello, se ci sei, batti un colpo, se no la tomba è pronta per te. Lucariello è morto, fa che? Dopo non canta più, su colpo lì e colpo là. Ma poi Giuseppe, dai, io faccio un po' di carica, ci sentiamo dopo, dai. Miglia, anch'io faccio adesso, me la riscaldo nuovamente, faccio anch'io carica, dai. Vorresti per me, ci sentiamo più tardi oppure domani, dai. Dai, vorresti per me, ciao ciao. Ciao e bye. No, ciao Giuseppe, dai, buona carica anche a te. Andrew, se mi stai ascoltando a più dopo, se no ritieniti super salutato, eh.